Buona domenica pomeriggio a tutti, complottisti di Radio Exalge. Buona primavera a tutti, buona domenica Manz, sempre da Atene. Con un po' di rabbia in più e qualche oggetto in meno, mi sembra di aver capito. Sì, ciao Gio, ciao a tutti. Qualche oggetto in meno perché mi sono entrati i maledetti ladri in casa. La settimana scorsa mi hanno fottuto il passaporto, cosa estremamente di poco conto, ma in realtà fonte di inevitabili rotture di palle burocratiche. Infiniti sbatti e code, esatto. E tempo perso all'ambasciata, che poi, apro parentesi, ti lascio immaginare come possa essere l'ambasciata italiana ad Atene, cioè se in generale ci sono delle ambasciate che si fanno veramente il mazzo, quella italiana ad Atene lavora un'oretta al giorno, si mangia il suo tzatziki e finisce lì tutta la questione. È un colmo, potrebbe essere un colmo. Sì, un italiano, uno spagnolo e un greco all'ambasciata ad Atene. Deve essere come l'ambasciata spagnola in Portogallo, cioè utile ma fino a una certa, ecco. Giusto, allora di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di giornalismo in una maniera assolutamente variegata e scanzonata, mi viene da dire. Perché alla fine abbiamo scelto il giornalismo perché assomiglia un po' al cibo, e visto che la puntata precedente era sul cibo, abbiamo deciso che è interessante andare su queste cose, per cui ognuno ha la sua idea e difficilmente se ne separa, alla fine coltivandola come una tradizione. Il giornalismo un po' una tradizione, un po' genera tradizione, è un po' alla fine un lettore incarognito, ad esempio dell'Unità, da 50 anni convinto che lì vi sia scritta la verità, è un po' come un italiano convinto di sapere come si fa la carbonara, no? Direi proprio di sì, e aggiungo che se una volta la verità era quella narrata da un popolare telefono senza fili e le ricette si passavano allo stesso modo di mano in mano, oppure c'erano studi e inchieste per entrambi, passati da giornalisti magari dedicati a una sola inchiesta, oggi la sovrainformazione invece ci colpisce sia a livello di cronaca e indagini, sia a livello di infiniti blog di ricette, i cui link sono in ogni pagina delle maggiori testate online e cartacee, perché alla fine il food porn, come qualsiasi altro porn, vende. E visto che siamo in tema di porn, almeno slightly, direi di lanciare Piero Umiliani, grande autore dei soft porn italiani, con Mana Mana. Ale, via! Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana un giorno parleremo anche di gomblotti pornografici, ma tornando al giornalismo, come non citare Jack Manz? Cosa ci hai proposto oggi tra i vari argomenti? Come mai ci hai proposto Watergate, le dimissioni di Nixon? Primo motivo perché è un bel complottone. Un bello scandalo. Un bello scandalo, un bel complottone, e come non infilarlo in mezzo in una puntata che un po' cerca di dedicarsi al giornalismo, allora, considerando poi che bucio di culo, mi viene da dire, tutta questa cosa viene denunciata al Senato proprio il 21 marzo del 73, quindi buon compleanno Gomblotto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per chi non se lo ricordasse, ti va di fargli un breve riassuntone del Watergate? Sono pronto, ho studiato. Prego, alunno Pizzarotti, ci dica. No, vai, cosa voleva introdurre ancora? No, volevo chiederle se, appunto, se voleva spiegarci un pochino questo Watergate, che cosa successe. Se... Ma sì, soprattutto è stato una decognurazione diurna del complotto giornalistico, tradotto dal latino, perché molti quotidiani l'hanno parlato molto leggermente fin da quando è uscito le prime notizie di spionaggio e controllo da parte di Nixon. Però partiamo dall'inizio. Nel 1972 tutto venne a galla e prese nome perché nello stesso edificio del Watergate Hotel, Washington, aveva sede il quartier generale del Comitato Nazionale Demografico, dove mi fulmini per la dislessia. Alcune spie nixoniane entravano da tempo, evidentemente, in questa sede del quartier generale del Comitato Nazionale Demografico, e lo ripeto, demografico, per piazzare microfoni difettosi nei telefoni, fare foto, documenti, e piazzavano un pezzo di scotch sulla porta, forse come facevano nei film, per vedere se poi qualcuno apriva quella porta, passava di lì o meno, o se lo sono solo dimenticati. Una guardia di sicurezza del palazzo, pensando che fossero servienti delle pulizie, tolse quello scotch una sera per poi ritrovarselo la mattina successiva, e allora sorvegliò e poi diede l'allarme, incontrando chi fece irruzione nel quartiere generale del Comitato Nazionale Democratico. Se non se ne fosse accorta questa guardia di sicurezza, probabilmente oggi avremo la testa di Nixon al governo in un recipiente di gelatina alla Futurama. E poi, appunto, questa cosa passò molto in sordina nei quotidiani americani e del mondo, e se non che piano piano, visto che le cose non tornavano e c'era sempre più puzza di complotto, John Dean, che fino a quel momento si era occupato, cioè per un anno si era occupato di mascherare tutto per difendere Nixon, la persona di Nixon, del presidente, a un certo punto, per paura di essere sacrificato lui, perché come capro espiatorio di tutta la vicenda, lo denuncia in Senato appunto il 21 marzo 1973, sembra una canzone di Dalla, dopo averlo protetto fino a quel momento. E pochi giornali, appunto, diedero peso tutto quest'anno, tranne forse il Washington Post. Tra l'altro, in quell'anno Nixon vinse le elezioni, e Nixon aveva fatto tutti dei comitati anche per difendere la sua posizione da presidente. Addirittura mi sembra che si chiamasse CRP, Comitato per la Rielezione del Presidente, quello che si occupava di tutte queste faccende di spionaggio e di controllo del Partito Democratico. Tra l'altro, se non sbaglio, lui si è beccato anche la procedura di impeachment, e credo che sia stato l'unico press a essere stato impicciato ufficialmente. Minchia, ci mancherebbe altro con tutto quello, con tutte le spie che ha piazzato in giro. Quindi l'inchiesta giornalistica fu seguita principalmente dal Washington Post. Ma come? Mentre tutti gli altri quotidiani davano molto poco peso e magari denigravano addirittura questo tipo di notizie, perché complottistiche, non vere, Washington Post assegnò a due giovani giornalisti la vicenda. Non c'era ancora il complotto porno, probabilmente, che quindi non vendeva ancora, mi viene da dire. No, probabilmente si parlava di ogni giorno di qualcosa di diverso e di interessante. Questi due giornalisti sono Woodward Bernstein. Ed è bello sognare che le testate giornalistiche affidino a singoli giornalisti intere inchieste dalla parvenza irrilevante ma alquanto losca allo stesso tempo. Fa sognare un po' di quel giornalismo romantico a cui siamo abituati magari dai film o dalle storie. Eh sì, è un'idea molto romantica questa, cioè pensare come possa... Oddio, penso che tuttora alcune testate lasciano comunque ad alcuni, no, la possibilità di investigare. Mi ricordo ricordo ai tempi, cos'era, nel 2008, una cosa del genere, quando ci furono le 10 domande di Giuseppe D'Avanzo, che era il giornalista investigativo di Repubblica, a Berlusconi, che tirò fuori un po' tutto il casino di della Patrizia D'Addario, dell'imprenditore pugliese di cui adesso mi sfugge il nome. E ci fu poi tutta quella gigantesca inchiesta che finì con le oggettine, con la nipote di Mubarak, che insomma, con la nipote che tutti noi vorremmo avere. E ricordatevi, Berlusconi c'entra sempre. Esatto, sempre. Come non c'è Berlusconi oggi? Berlusconi, Gio. Giornalismo, Berlusconi. Cibo, Berlusconi. Complotto, Berlusconi. Comunque, sempre dentro. Assolutamente vero, ma la cosa romantica è anche quando magari una notizia non sembra poter vendere o sembra addirittura denigrata da altri, che ci sia qualcuno che ci si focalizza, che vada a chiamare 100 e passa contatti per verificare quello che è successo, quello che è stato, la loro opinione, la loro testimonianza, e poi andare a fondo e arrivare a dei risultati effettivamente scandalosi. Sì, è un lavoraccio, cioè se ci pensi è un bel lavoro di testardaggine, di... È anche molto romantico per il fatto che poi no, uno deve crederci in queste cose, perché se non crede davvero che ci sia qualcosa di puzzolente, o forse magari è solo ambizione, chi lo sa. Sì, però è anche un rischio, c'è anche una percentuale di rischio nel dire assolutamente. Ah, poi magari invece Nixon era un santo e... o forse no. Berlusconi è solo un giocherellone e... Esatto, era il papà che tutti noi sognavamo. Comunque sì, Berlusconi non va dall'altro, ci entra sempre. Questo dovrebbe far capire a tutti quanto ha plasmato la nostra cultura di, non so neanche cosa siamo noi, millennial, generazione Z, io strabe tutte le volte mi confondo, non so, tu mi sembra che forse sei un boomer. Forse sei un boomer. sì io sono un boomer, in realtà ho la 500 del 1967 in garage, Vespina. Qui da Vespina. Esatto, la Vespina. Pago ancora in lire, per quelli che me l'accettano. Bitcoin in lire. Bitcoin in lire. Niente, io esulo da queste categorie e rimbalzo la domanda. E poi c'era un'altra storia che volevamo tirar fuori oggi, che è la storia di Hunter Thompson, che fu un giornalista d'inchiesta, proprio un po' si collega a quello che stavano cercando di dire, cioè di doversi mettere lì e chiamare un sacco di persone. Diciamo che lui ha, da un certo punto di vista, sviluppato ancora di più questa capacità, nel senso che si unì e diventò appartenente agli Hells Angels, che, per chi non lo sa, furono un gruppo molto famoso di biker, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale da ex reduci verosimilmente dell'estrema destra americana, che vivevano al limite della legalità, potremmo dire, andando in giro in moto, provocando risse, sbevazzando. E fun fact, il chopper, cioè la motocicletta chopper, deriva da loro, perché prendevano il telaio della Harley Davidson e lo cioppavano, cioè tagliavano tutti quelli che erano degli accessori inutili, tipo un parabrezza piuttosto che delle pedaline eccetera, lo smontavano e ci montavano il famoso, no, il mega volante, mega manubrio da chopper, quello alto che consente di far riposare un po' di più le braccia al motociclista sulle lunghe tratte. E altro fun fact, ci inserirono anche la famosa beach bar che è beach non nel senso di spiaggia, ma nel senso di beach, che era la seduta posteriore per far sì che le donne Hells Angels potessero comodamente sedersi a bordo del loro chopper. Ovviamente non guidare, perché non potevano guidare le donne. No, cioè, ma no, ma no, ma scusami. altra cosa interessante fu che loro erano un gruppo estremamente, no, patriottico, tanto che partecipavano attivamente nel supportare la guerra in Vietnam, e tanto che caricavano molto spesso anche le manifestazioni di pacifisti facendo grossi danni, fino a che non si raggiunse una tregua, se non mi ricordo male, nel 67 o nel 68, capitanata dal buon poeta della Virgine Operation Allen Ginsberg, che andò dal capo degli Hells Angels armato di LSD. Passarono insieme una strepitosa serata all'insegna della psichedelia e pare che alla fine gli Hells Angels si sciolsero da quel momento. Si sciolsero letteralmente e a quanto pare poi ci fu una tregua tra i pacifisti e loro. E la cosa interessante fu che questo giornalista Hunter Thompson si infiltrò dentro gli Hells Angels per poter scrivere un po' la loro storia, perché è un gruppo anche molto segreto, quasi una setta, diciamo, sì, che non lascia trapelare niente, che fa cose anche molto appunto illegali e chissà quanto potere ha avuto, comunque con che personaggi di potere è stata intrallazzata, nonostante la sua origine di strada magari, o la sua parvenza di street people. Era un po' il movimento 5 Stelle degli anni 60, è uguale. Luigi Di Maio sul chopper. E quindi Thompson si adeguò a questa cosa, e la cosa interessante che ci stava secondo noi tirar fuori era quella di dire che alla fine il giornalismo poi non è solo una mera report di alcuni fatti, ma poi ogni tanto per raccontare alcune storie c'è proprio il bisogno di entrare dentro la realtà e perdere il punto di vista un po' oggettivo, ma acquisire quello di chi la vive quella realtà, un po' come può succedere con alcune inchieste sui migranti, ad esempio, dove qualche coraggioso, mi viene da dire, giornalista si finge un migrante per percorrere le rotte e per effettivamente portare alla luce un dolore che altrimenti è sordo, che comunque non, magari non riesce a trasmetterci così tanto come se è stato vissuto da qualcuno. Assolutamente, direi che infiltrarsi è una delle maniere per raccontare qualcosa di prima persona. E a riguardo, tra l'altro, mi viene in mente Lungo la via incantata di William Blaker, che è un bellissimo libro, bellissimo, su un viaggio in Romania di questo giornalista scrittore inglese, che praticamente si trasferisce in Romania al momento del cambio tecnologico rumeno, diciamo, chiamiamola così. Stavo per fare una battuta razzista, ma mi sono trattenuto. Vabbè, se vuoi dirla ormai che l'hai annunciata, c'è ancora stato, vabbè, ho capito. Il nazismo li teniamo per un'altra puntata, giusto? No, che praticamente non si parla del 1800 né del 1900, ma banalmente anni 80, se non dopo, dopo la caduta del muro. Quindi ho trovato questa notizia all'ultimo. Dopo la caduta del muro, lui si trasferisce in Romania per descrivere i cambiamenti che la caduta del muro poi porta anche a questa Europa dell'Est, che così est non è. Dove si descrive una realtà di contadini praticamente stupefatti dall'arrivo delle strade asfaltate, anche solo quello, che non sapevano cosa farsene, onestamente, che avrebbero vissuto tranquillamente senza. Beh sì, poi non avevano ancora i muli 4x4, ma comunque mi pare che le cose gli andassero. Sono bene. Arrivati dopo, hanno creato la Dacia. Esatto, ha creato un grande impero automobilistico. Indistruttibile Dacia, consigliamo a tutti i radioascoltatori, non è uno sponsor nostro, quindi possiamo dirlo spassionatamente. Comprate la Dacia che va ovunque. E si può guidare anche da ubriachi, è una delle prime macchine che garantisce ottime prestazioni anche non da sobri, possiamo dirlo. Giusto. E mi fa morire perché poi io viaggio in Romania, che ho fatto con mio cugino a piedi, ho fatto un autostop e c'era un ubriaco. Grazie. Mi ha preso su un ubriaco che guidava una Dacia e l'unica cosa che riusciva a dire era Berlusconi. Ale. Lo vedi? Quindi io mi sono infiltrato in Romania per conoscere un po' anche questa realtà. Ma a proposito di realtà, possiamo lanciare Amadou e Mariam con La Realité. Via. La vie dans ce monde, triste réalité. Le sirene della police, la realtà di Amadou e Maria. Senti, ma mi hai incuriosito con sto viaggio in Romania. Sarà che hai citato Berlusconi, ma mi hai veramente incuriosito. Attizza sempre citare Berlusconi, lo faccio per quello. Esatto, dovunque Berlusconi e tutte le strade portano a Berlusconi, d'altronde. Ma dove sei andato? Che giro ti sei fatto? Allora, io mi sono ritrovato in Transilvania, perché in verità ho detto, con mio cugino ci siamo detti, partiamo da Budapest, prendiamo il treno, arriviamo in questo paesino in Romania, attraversiamo questa pianura, cioè noi proprio guardando la carta, poi sembra tutto in direzione sud-est, non sembra neanche tanto lontano, riusciamo ad arrivare poi nel Mar Mediterraneo dall'altra parte a piedi in una settimana. E se ci riusciamo ammazziamo anche un tot di vampiri. Esatto, già che ci siamo, passiamo di lì, ammazziamo Dracula e poi andiamo a farci un bagno. Invece poi quella pianura è risultata molto più lunga di quanto sembrasse. Alla fine della pianura c'erano le montagne, quindi abbiamo detto vabbè, facciamoci una gita in montagna, poi prendiamo il treno e torniamo a casa. Onesto, avete misurato 10 cm sulla mappa, che sembrava una cosa fattibilissima. Sì, ho detto dai, teniamo un passo di anche, non so, 6 km orari al giorno per tutto il giorno, ma non ho incluso le ore di sonno e le ore di pausa da uno zaino di 30 kg e via. Che poi è quello, perché quando fai i viaggi a piedi, lo zaino è un po' il collo di bottiglia, nel senso che davvero quando li fai la cosa che devi prendere è due paia di mutande, quelle sporche che usi tutti i giorni per sudare come un bastardo, e quelle pulite è quella volta in cui ti senti un po' più volenteroso di essere pulito, ma poi diciamo meno peso hai, meglio stai. Assolutamente. Beh, il primo è che deve essere la tua casa anche, cioè la tua il tuo zaino è la tua casa, la tua dispensa, il tuo armadio, è un po' tutto. Quindi meglio la scatoletta di tonno che un paio di calze. Meglio sì, cibo intelligente da viaggio che troppe paia di calze. Infatti io ogni volta che viaggio mi faccio una lista di quello che porto e quando torno mi faccio una lista di quello che ho usato, così posso escludere tutto quello che non ho usato per il prossimo viaggio. E questa è una grande mossa. In effetti non ci ho mai pensato. No, per forza. Poi è tutto diviso in gite da 2 giorni, gite da una settimana, gite da un mese, perché ovviamente cambia. Senti, ma se hai fatto un foglio Excel passamelo, che sono curioso a questo punto. Sì, va bene, c'ho le note, come si chiama, Microsoft Notes, una roba del genere. Senti, ma continuando sulle domande, visto che siamo nel momento domande della puntata e visto che parliamo di giornalismo, mi sento intervistato. Questo deve essere lo scopo. La prima domanda che ti faccio è se tu sei una di quelle persone che legge il giornale al mattino, cioè c'è un momento in cui ti informi, è un processo, oppure un processo che va avanti un po' tutto il giorno cazzeggiando, aprendo le notizie. Prof, lo chiede a me, la so. E soprattutto, che cosa leggi? Allora, io ti devo dire che non leggo il giornale al mattino, non vado su internet a leggermi le testate online e non compro il giornale. Lo sfoglio quando lo trovo per via altrui, che sia a casa coi miei, che una volta erano anche abbonati al Corriere, o se qualcuno lo prende o se lo trovo al bar. Lo sfoglio, ma poi solo per forse convincermi sempre più della sua inutilità, o per arrabbiarmi di come il giornalismo odierno viene sbattuto in faccia alle persone che lo pagano anche. Il famoso clickbaiting, sì. Il cartaceo, però. E questo, vabbè, parlando di quotidiani. Poi, in verità, io sono abbastanza radiofonico ultimamente. Magari mi guardo Propaganda Live, che anche se non è proprio informazione di per sé, a farsi un'idea dell'attualità e non aiuta. Radio 24 è un po' il mio... baluardo. Ma, ma cos'è? Sono solo, come si chiama, notizie? No, o... fanno di tutto. Alla mattina leggono, alla mattina presto leggono tutte le testate. Poi parlano di alcune notizie, poi ogni mezz'ora, un'ora c'è il radiogiornale, c'è la borsa, c'è il traffico, cose di cui ovviamente ci interessa tantissimo. Lo seguo soprattutto per quello. E poi vabbè, ogni ora c'è un programma diverso a palinsesto che si occupa più o meno di attualità. Da... In teoria è la radio di Confindustria, quindi anche abbastanza economico. Mi sorprende tu che leggi l'Economist, che non ti ascolti Radio 24, che non preferisci il Sole 24. Tra l'Economist e Confindustria ci passa almeno un paio di tangenti di denunce, no? Ma no, sì, non ne ho idea, non conoscendo l'Economist non ne ho idea, però io sto piano piano ascoltando Radio 24 e facendo evolvere la mia teoria del complotto di Confindustria. Ma sai che non lo sapevo che fosse la radio di Confindustria, mi stupisce. Io l'unica radio che ero abituato ad ascoltare era... Radio Popolare, di cui ero un accanito sostenitore, soprattutto della loro rassegna stampa mattutina, mi piaceva sempre molto. E penso che per me la sigla della... Salutiamo anche Nina Terruzzi di Radio Popolare, che tiene venerdì e sabato un programma su jazz e musica brasiliana. Assolutamente, bravi, mamma mia che spettacolo, ascoltala su Radio XR, è stupendo. Poi lei ha una voce stupenda, cioè una voce radiofonica stupenda. Sì, è veramente clamo. E per me, ti giuro, la sigla della rassegna stampa di Radio Popolare al mattino è forse la cosa che mi ricorda di più. Adesso dico una cosa molto sdolcinata per strappare una lacrima strappa storie. Una strappa storie di lacrima. Esatto. È una delle cose che mi ricorda di più il concetto di famiglia, perché è proprio quel ricordo di alzarsi alle 7 di mattina, 7:30 per andare a scuola, all'elementare o medie che fossero, con la radio accesa e il weather report dei market. Beh, la prossima volta lo mettiamo per aprire la cosa, così mi hai fatto venire un momento di nostalgia. Sì, di nostalgia un po' canaglia. Io invece mi leggo molti giornali, molti articoli. E tu sei bello giornalistico, eh? A me piace. Cioè, una delle frasi più utilizzate in questa casa per cui le mie coinquiline mi pigliano per il culo è: ma sai che ho letto un articolo a proposito di comincia la sbrodolata di 20 minuti. Sei anche con una giornalista in casa. esatto, che dopo avremmo anche il piacere di ospitare, perché diciamo, con questo lockdown, quarantena, mica quarantena, ci viene voglia di intervistare un po' tutti, e quindi non avendo né un cane né un gatto abbiamo deciso di... Scherzo, Paola! Spoiler alert! No, però sì, sono molto giornalistico e mi piace molto il post di Luca Sofri, che non perdo mai l'occasione di sponsorizzare. Adoro il loro modo di scrivere le notizie, sempre i famosi spiegoni, che è un po' lo spiegone di Da Milano, visto che guardi, cioè che c'è questo modo di... E io adoro il loro motto, che è le cose spiegate bene. Cioè, tu non sai una minchia fritta di cosa succede in Siria, ti leggi lo spiegone del post e non dico che dopo vivi meglio, però... Hai un'idea. Riesci a farti un'idea. Esatto. E poi sponsorizzo... Tu leggevi l'Internazionale? Io sì, ho abbonato la mia famiglia per un anno, era tipo un autoregalo, uno di quelli che si fa agli altri per se stessi. Un classico. Però abbiamo apprezzato tutti. Io me lo sono letto molto volentieri, era una bella sorpresa, diciamo, in confronto ai quotidiani. Bellissimi articoli, anche bello il fatto che sia internazionale, perché le notizie che di rilievo alla fine non vengono tutte da casa propria. No. E ti fai un'idea anche di un mondo che è globale, quindi è giusto farsi un'idea globale. E poi ovviamente ci si trovano anche lì i loro difetti. C'è qualcosa da dire, ci sarebbe anche sul post, immagino, su Internazionale o L'Espresso o Propaganda. Cioè, vabbè, ogni programma del resto, tranne l'ora del complotto, è un programma imperfetto. Assolutamente. Beh, io vi ho regalato, credo, ad Exalge tutti i miei vecchi internazionali. Un paccone, un paccone gigante. Abbiamo fatto una parete. Abbiamo costruito un muro, ma in orizzontale, non in verticale. E poi mi leggo una roba che ti consiglio se hai veramente voglia di buttare via una mezz'ora abbondante. E gli articoli del Trascabile, che è questa rivista online della Enciclopedia Treccani, che scrivono questi articoli che sono dei veri e propri long form, nel senso che ci metti veramente 25 minuti, e molto spesso quando le finite di leggere dici cazzo che bello, e subito dopo cazzo non ci ho capito niente, e quindi hanno un po' quel piacere subdolo di farti sentire stupido, ecco. I famosi saggi, insomma. Esatto, i famosi saggi. Però un bel esercizio, ecco. Molto spesso trovi degli articoli che parlano di cose che poi non ti sogni neanche. Uno dei più belli che mi ricordi era una sorta di ricerca scientifica su quanto ci farebbe bene a tutti assumere un po' di lisergici ogni tanto, e su proprio degli effetti benefici sulla psichedelia in generale, ed era veramente molto molto interessante, molto molto interessante. Noi ricordiamo che ospitiamo in Exalge la Società Psichedelica Italiana per diverse conferenze sulla psichedelia, poi ovviamente ha tanti aspetti, se ne può parlare in tanti termini, dal termine medico soprattutto cerchiamo di analizzarla magari. Ma sì, non lo sapevo. È interessante questa cosa. Oh yeah. Sì, abbiamo fatto per ora un incontro solo, perché ovviamente essendo stati aperti solo a ottobre, però speriamo di organizzarne appena si riapre in futuro, e magari qualche cosa anche in radio possiamo pensare. Ci starebbe una bella intervista, gli facciamo un'intervista doppia, una cosa del genere. E, cazzo, in effetti potremmo farcela anche noi un'intervista doppia, potrebbe far ridere o molto piangere, ma io mentirei spudoratamente su tutto. O risponderesti Berlusconi a qualunque domanda. Jolly. Va bene, lanciamo il prossimo pezzo. This Feeling, Alabama Shake. Let's go. Why you would become clear? I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. Way here. I'm gonna be alright. This feeling, really, the Alabama Shakes. Very deep, man. Very, very deep. Che poi... Che poi? Che poi? Perché questo giornalismo? Esatto, perché? Perché, perché credo che sia... Sia una materia molto soggettiva. Non come, non come la carbonara, ma come la cucina. Esatto. Esatto. E forse proprio per questo ci interessa, e forse proprio per questo ha questa capacità in realtà di... Cioè, certe volte ci sono delle informazioni che hanno anche la capacità di emozionarci profondamente, perché danno spazio ad idee veramente, veramente molto diverse. E adesso c'è il momento trigger point, perché, come ben sai, come tu ben sai, alla fine io ritengo che, per quanto Libero, citando un giornale a caso, sia una grandissima... Un giornale a caso è un giornale a caso. Esatto, o La Verità di Maurizio Belpietro, sia una grandissima merda. Speriamo che non siano in ascolto i nostri amici Maurizio Belpietro e Vittorio Felti, che salutiamo con un caloroso abbraccio. Stima profonda. Stima profonda. Io il titolo o la prima pagina di questi soggetti me li vado a vedere, perché sono curioso di capire dove un po' la merda può arrivare, ed è un po' il mio strano feticismo che ho per le cose che ci fanno schifo, cioè che anche, no, il bottom of the barrel, la fine del barile, sia alla fine qualcosa di che vada scoperto in un qualche modo. Ma no, è fattuale. vorrei saper fare un'imitazione di Feltre in questo momento. Come sai, ci troviamo appunto su due pagine diverse, perché una volta avevamo fatto un discorso simile, forse sulla letteratura, citando 50 Shades of Grey. Tu te ne stai andando, ma poi siamo stati un'ora a parlare con lo Zaino Spalla. Il dibattito sì. Che ci ha tenuti impegnati parecchio. Beh, ma era profondo, cioè, sì, nel sì, senso... infatti lo riaffronteremo in un altro episodio, il complotto della letteratura. E ugualmente anche per la musica potremmo farlo. Leggere o non leggere quello che sai che non è esattamente air top, o quello che sai che non è esattamente quello che rispecchia i tuoi pensieri o le tue corde. Esatto, che non è nelle tue corde. Ed ecco quindi che io il libro non lo leggo, no, nemmeno la prima pagina, a meno che non mi venga schiaffata in faccia da un meme o da Crozza. Che vogliamo spezzare una lancia in favore dei meme, sono forse uno dei modi con cui più persone si informano. Cioè, alla fine penso che una persona scopra una notizia che qualcosa è successo più per un meme che non perché se l'è andata a leggere. Certo, sono ovunque, dilagano in queste era di sovrainformazione e disinformazione. Io ho detto che Biden è inciampato l'altro giorno salendo sull'Air Force One, perché a un certo punto c'era una quantità di meme su Joe Biden che inciampava, che sinceramente... E queste sono le notizie, signori e signori, solo sull'ora del complotto potrete sapere che è uscito un meme che ha detto che Joe Biden cadeva dalle scale dell'AF1. Guarda, rimpiangevo il meme su Bernie Sanders a quel momento dell'altro giorno. Storia, quella è storia. Quella è storia, quello è veramente, veramente storia. Oppure la mosca, la mosca anche, sempre sua mi sembra, della mosca no? Sulla testa durante l'intervista. Ah, di cos'era, Mike Pence? Può essere. Sì, ah no, forse era di Biden, non sai che non mi ricordo. Uno dei. E E poi adesso, insomma, vi diamo anche un altro scoop, che è il motivo per cui ci piace inserire le canzoni all'interno del nostro podcast. È quasi esclusivamente dovuto al fatto che sia io che Joe, oddio, parlo per me, ma probabilmente siamo degli iperprostatici e facciamo un sacco di pipì, e quindi e quindi le canzoni in realtà sono le nostre pause pipì. Beviamo parecchio. Esatto, sei canzoni in un'ora è comunque una quantità di pipì abbondante. Ok, 3 minuti e 07 con Cinito Rulo di Los Mirlos, remixato da Shuppe. Pronto? E intanto prima a chiamare l'intervistata. Intanto andiamo a chiamare l'intervistata. Grande. Eccoci ritrovati con anche la prima ospite della trasmissione dell'ora del complotto su Radio Exalge. Benvenuta Paola Camarà, o Camara, non me lo ricordo. Camara. Fantastico, diventeremo anche un po' internazionali oggi perché parleremo un po' in inglese, e considerando il fatto che il nostro target di ascoltatori sono tutti over 70, faremo anche una traduzione momentanea per sopperire a questa grave mancanza di patriottismo. Dai, vediamo se ci viene voglia, se no andiamo in inglese. Welcome to our international guest. Paola Camarà, nice to meet you. Nice to meet you also, thank you. So we have a journalist in studio, actually in Athens. Yes, indeed. And the idea was to have a journalist that is not a boomer like us, but maybe more belonging to a millennials or to a younger generation, because we would like to understand and deepen a bit the how journalism has changed and how in general those things are affecting this job that we try to, let's say, to investigate today together with Joe. Yep. So the first question maybe I can ask instead of you would be, be "What the fuck?" Literally read from the from our palinsesto. What the fuck does it mean to be a journalist today? Well, I think that's a question that it's, I don't have an answer for it, because when you join the degree of the journalism, you have an idea of journalism that actually doesn't exist. So I think that each time that you have like an experience of journalism, the definition of what is to be a journalist changes completely from your experience. So I cannot give a definition of what is to be a journalist, to be honest. Well, but now I have the second question that is related to the first one, that is, well, it's not a question. Maybe we shouldn't invite Paola then if she's not able to give an answer. No, absolutely. We can ask her what is her kind of journalism. Now I'm in a marketing team, in the communication team of an NGO. So, for example, this is a kind of part of the journalism that I didn't thought I could be ended up doing when I joined, because when you think about journalism, you think of someone typing and writing news in an office, and that's not how it can be. Like, for me, I never thought that I would end up being in an office of an NGO working in communication. So it's very broad. There are different perspectives of journalism. And this is my second question, that is more or less something related to the fact that, I mean, could you please describe us maybe a few ways that you think exist to be a journalist? I mean, okay. Some roles, like you said, I never expect to end up in a marketing or communication team, but this means that there might be others that we don't know and we would like to understand. Okay, so for example, one of the things that I was more surprised when I was working in a radio station is that most of the parts that I thought that it was going to be a journalist, it was going to the places, talking to people, researching. And for example, a lot of press news companies, press agencies nowadays do like 85% of that work. So you actually only have to read that part and face the mic for saying it that way. So for example, the press agency is a thing that I never thought about it, that it's someone that does the work for you but actually is not writing in. It's only like a press agency. Okay. So reporting the report. Yeah, it's like you as the budget, let's say now in the journalism, is not the best one over there, let's say. A lot of companies and a lot of news agencies and newsrooms, they pay for a press agency actually to get information instead of paying a journalist for doing it, because it's easier and it's cheaper. But at the same time, it makes everyone to say the same, with no different perspective on that. It's like second-hand news, I would say. that we perceived. That was something we understood. So we have the sensation, basically, that journalism is maybe less romantic than it could have been when it was more finance and when it was more day-to-day hero thing. So actually, what do you do during your normal work day, job day? Well, for example, I'm one of the people that send the press releases to the media, that some of them, they share directly how I'm reading it, but then it's the name of the journalist that is signing it. That's actually totally my job and the job of a lot of people that work in communication teams. But also you lose a bit the magic of what it means journalism, because you see directly that people have maybe not even read what they are sharing. I'm not saying that all journalists work like that, of course, thanks God, no. But in a lot of sense, I think, yes, it's not as romantic as we can see in a film or we can imagine in first place, I would say. And would you... I would like to add something about this topic, because I know, Joe, if you've read this week newspaper Repubblica on online, sometimes it's very nice to read their titles, because they are like I would love to be a title guy of Repubblica, because they have such a fantasy and such a... I love titles because they also don't know how to place commas, dots and stuff like that, so they have their own way to do it, because it's the journalism way, but it's not always like the title of Repubblica this week, you know, that there's been this big not scandal, but big problem with the AstraZeneca vaccine, and people got scared and whatever. And Republica, since they want to, you know, to put water on the fire because they want to extinguish the fire, said, make a title writing something like, a grandma get out from the hospital after having AstraZeneca, a truck investor. That was, for me, it was amazing. Like, if it is not the vaccine that kill you, at least be prepared for a truck to kill you just when you get out from the hospital. Watch left, watch right when you get out of the hospital. Totally. And it was pretty funny for me, that title. And so Paola, I also have more. If you aspire to some more romantic journalism, or you find your place right now at least good, or you would prefer to be an independent journalist investigating on something you think maybe some conspiracy like us. Maybe. The truth is that now, for example, I like what they do, and it's completely different, and I think that each experience make you grow in a different way, also inside journalism. But for example, what I like of the situation now is that people are getting a bit tired of the journalism that it has been doing so far the last 10 years, let's say, because they started maybe to have more and more critical view to what is being done and the way and the influence of the advertisement. So a lot of different small initiatives in journalism are coming up, like maybe financed by people that are reading it, which made them more independent. And for me, for example, I would love to be part of one of those, because I think that also when it's smaller, it has that essence that it's less corruptible or less influenceable, because you don't have that much power like a big one, let's say. Mm-hmm. Totally. That's cool. Totally. And do you have a journalist that you think like that inspired you? Like somebody that you said, wow, that job, that guy made something that was really different and really powerful. And I mean, and with the journalism, photojournalism, journalism of investigation, I mean, the term of journalism is very broad. So feel free to give an answer on this, about this. For me, for example, one of the examples that inspired me more, it was Spotlight, the film Spotlight, that goes mm-hmm. of an investigation team of the Boston Globe, I think is the newspaper. And it was super inspiring. And I had to do a research in my university. And I talked with one of the journalists that was part of that group. And he was explaining how was all the process, like 20 or 30 years ago, like in how they did all the research. And when I talked with him, it really inspired me, the way of how he did the work, how he was doing. It was Matt Crowell. It's the name of the journalist. Matt Crowell. Yes. Okay. But also, no, please. Also, for example, a girl that inspired me a lot, it's called Lola Hierro. It's a Spanish journalist, and I went to a small course that she did, and she was the person that enlightened me a bit of what I wanted to do, or almost how I wanted to feel while working, like contributing in something that it was fair, like it could make, let's say, in a even more romantic way, the world a better place. Let's say. And this is exactly what we like from Exalge, isn't it? Yes, a little place to make the to be called home. Jack, do you speak Spanish? Me? Yeah. No, I can understand it pretty well. I mean, living with them for 6 months, in the end, like, your ear becomes familiar with all these sounds, so no problem for that. And not able, I mean, not confident, more than not able to speak it. but please feel free to speak Spanish, Joe, if you'd rather. Sí, si no, vamos a hacer un capítulo entre idiomas diferentes y vamos. Ya está. Volvemos al inglés. Te pediría, bueno, un'altra cosa che sì, bueno. Torniamo all'inglese. Yes. Something that inspired me as well was another movie that is called Shattered Glass, a story about Stephen Glass, who wrote for a very important journal that don't remember the name, but go check the movie Shattered Glass. I cannot spoil it. Basically, I cannot talk talk about it because I anyway I talk about it, I spoil it. but yeah, go check it, Shattered Glass. And it's not a sponsor, so I can say it as many times as I want. The day in which we will start having sponsor, it will be like... Watch it. Warner Bros. And there is another question that we would like to ask you, Paola, because we cannot, I think we cannot... We have to make you a question that is really related, I guess, with the time we are living. That is the time made up with social network. And it's a very selfish time somehow, meaning that many people try to put themselves as a protagonist of their own story that they are able to write. And the question is not polemic, but it's a bit, you know, spicy. Because I would like to ask you if you think, if you have this this feeling that some people maybe start this career just because, not because of the willing, as you were saying, of making this world better or at least contributing to something of a high level ideal, let's say, but more because they are moved only by ambition, by the willing of being protagonist, let's say. And the truth is that I don't know if people just join because of that, but I think it's also like a type of thinking that maybe grows while you are maybe studying it, because at the end, like, journalism, it can be like a changing factor, and it can change the way that a lot of people see one thing that happened, or a political party, or a political idea. So I think that when you think about having that, let's say, power or influencing people, maybe you can get a bit selfish in the way that you think that you are true and you're right only because you're a journalist, and that's all. Yeah, many times happens that journalists start their career very objectively, become famous, and then start to give their opinion, a lot influenced opinion, maybe a party opinion or their journal opinion. Yeah, which is good, because at the end it's nice also to have different opinions, but I think that also when an opinion is an opinion, it's okay, but when it's journalism also, it has to keep a bit that balance. It's not you, it's not a matter of yourself or what you think, it's a matter of giving to the people the information enough for them to build a critical opinion. So I think that exactly when some journalists reach one point, they lost a bit that, in my opinion, to be honest. Yeah, I agree. I can cite some names of Italian journalists that got fame. So maybe another question could be, what's your relation with information, whether it's false or true? How do you distinguish it, and how do you navigate through this sea of disinformation, misinformation, overinformation, and how do you get oriented? Yeah, if you want to give like some suggestion also how to, I mean, in your opinion, a suggestion to how to navigate, let's say. Okay, that's hard, and sometimes, for example, it happens with my parents that they read like one article maybe shared on Facebook that sometimes it's fake news or it's really polemic. And it's clickbait at the end, in a way. It's like they try to get clicks because it's like how they get my money to at the end. But and can we say it is 99.99% an article about a migrant that has made a rape? This is 99.99% of an article. Or that ate a cat. Exactly. Or a cat. So I think that one of the key points is not to look only to one place. And like when something sounds weird, to double check. Like, because sometimes it's tiring to be able to have like that radar, let's say, because it should be something that you trust. But the reality is that it is not what is going on. So my personal recommendation would be to double check, to not only in one place, maybe to have another one, because even though it's not your political opinion or your ideology, it can give you another view. Yeah, I can remember some very stupid video about Propaganda Live, who made basically, how do you say, they double interviews from other TV shows so that the participants were looking like they were not speaking. They were having no answer to any questions. Yes, silent answers. And a lot of journalists in Italy reposted this kind of video so that it looked like a real news that someone couldn't answer a very important question in TV. And it was a mega fake. It was a obviously double video. And the asshole prize goes to... And that's crazy because they were famous big journal in Italy and they didn't realize, they just reposted. And so here I think double checking becomes even more difficult. You should do double checking. And yeah, basically everyone should have some sort of journalist soul in this time, I think, because it's very, very difficult to... It's very easy to distort information and difficult to get it. Yes, you're having a critical sense, let's say. Yeah. A sharpened one. Yeah. For me, it is interesting, like I've seen... I forgot to send it to you, Joe. This I was scrolling on Twitter, and as I told you before, I'm a really big fan of Il Post by Luca Sofri, and there was this amazing let's say interactive map that was saying like this news had pop up. Il Post has written something about it. No, then it's not important. Yes. Then start reading the article and understand what the fuck is going on. correct. Maybe because they can allow themselves to say this because they check what they actually do, but many don't anymore. Yes. So. Well, I think we were done. Do you have any other question? Paola, do you want to add something more? Maybe like with this last thing that we were saying about what also to do, to be sure that what you're reading is not fake, let's say. Also, one recommendation would be to follow journalists instead maybe journals, because if you really follow one journalist that you really admire and you think it's good, I think it's more reliable in a lot of ways, the journalist itself, than maybe a broad and big journal. That's nice. Until they get too famous, we are going to follow. Until they become Vittorio Feltri or Maurizio Belpietro, that still we are hugging and embracing. But for those followers, please don't do it. Don't follow those two guys. Awesome. Thank you very much, Paola. Thank you. Thank you, Paola. Shall we go with songs? Yes, last song. Let's go with the last song and maybe possiamo tornare a parlare italiano, visto che Paola va bene, perfetto. Ci ha abbandonato. Grazie ancora. Ciao Paola. Cosa c'è? L'ultima canzone? Vogliamo fare uno spoilerino su cosa ci sarà settimana prossima? Allora, io manderei una canzone, poi facciamo questo spoilerino e poi ne manderei un'altra. Bellissimo. Se non hai fretta. Non ho fretta perché hanno spostato il coprifuoco alle 9. Miracolo. E c'è ancora il sole perché le giornate si stanno allungando. Perfetto. Sì. Benedetta primavera. Allora, Quantic, Soul Club. Yup. We'll be right back. Eccoci tornati, sembra che la canzone sia finita senza neanche accorgersene. Ma siamo qui solo brevemente per svelarvi next time cosa affronteremo. L'abbiamo deciso adesso, tra l'altro, sembra. Sì. Ecco cosa servono le canzoni, quando non facciamo la pipì decidiamo di cosa parlare la volta successiva. Ma non stiamo a svelarvi tutti i segreti, eh? No, d'altronde che complotto sarebbe poi alla fine. Allora, facciamo un miscuglione la prossima volta. La prossima volta possiamo fare un miscuglione o delle cose un po' target. Decidiamolo. Io propongo, faccio una sbrodolatona sulla Grecia, magari con tanti belli inserti di Sirtaki e Mediterraneo, minchia sicuramente, e cose del genere. Oppure una bella puntata su Milano e su quello che pensiamo della nostra città natia, della nostra patria, della nostra bellissima e ridente pianura padana. Fantastico. E allora invece il terzo argomento che potremmo trattare sono le droghe, visto che oggi abbiamo citato l'acido lisergico. Magari chiamando qualcuno dalla società psichedelica italiana a dirci qualcosa. A me è venuto anche in mente di magari parliamo di Grecia, Milano e droga, sì, droga, poi stupefacenti, che tanto si drogano tutti, allucinogeni, quindi... sono tanti modi di chiamarlo. E, vedremo cosa succederà, su cosa ci prepareremo. Sì, però sì, questa potrebbe essere la cosa, una grande Macedonia, quindi adesso vedremo se fare una frutta separata, un'amica Macedonia. E nel caso voi voleste affrontare un qualsiasi argomento in particolare di questi tre o altri, fatecelo sapere a info@exalge.com. Poi... Ah, ecco, ti volevo chiedere una cosa, Giù. Prima o poi le registriamo anche e le mettiamo sulla pagina? Sì, è tutto registrato già. Appena il sito sarà pronto potrete ascoltarci in podcast. Bello. Ancora no, però. Ma tra l'altro, cioè, sai come funziona? Tipo, se ci volessimo infilare anche su Spotify, se devi pagare delle robe, se dobbiamo fare delle cose. No, non ho più pallida idea. Possiamo informarci con tutta la musica che passiamo. Credo che sarebbe un po' un problema. Però sì, vero, giusto. Vediamo. Possiamo evolverci piano piano nel tempo. Comprare una prostata per non fare così tanto pipì. Ci può stare. Compriamo un pappagallo per lo studio. Esatto. Faccio le puntate col catetere. Ottimo. E allora direi di ascoltare i nostri quattro ascoltatori. Ci vediamo domenica prossima. Adesso vi lasciamo con You Are The Sun, Because You Are The Sun, di Hurricane Love. E buona domenica di nuovo, buona primavera, buon anniversario del complotto di Nixon, buon un sacco di cose buone. Berlusconi a tutti. Berlusconi a tutti, anche a te, Manz. A presto. Ciao, Giù, a presto. Bacione. Ciao. Hello, we're Hurricane Love, and this is our song You Are The Sun. You are the sun. you are the sun. Sun, you are the sun. Follow the sky into your perfection.